Cari fratelli e sorelle, stiamo in queste catechesi riflettendo sulle grandi figure della Chiesa nascente. Oggi parliamo di San Giustino, filosofo e martire, il più importante tra i padri apologisti del secondo secolo. La parola apologisti designa quegli antichi scrittori cristiani che si proponevano di difendere la nuova religione dalle pesanti accuse dei pagani e degli ebrei e di diffondere la dottrina cristiana in termini adatti alla cultura del proprio tempo. Così, negli apologisti è presente una duplice sollecitudine, quella più propriamente apologetica di difendere il cristianesimo nascente, apologia in greco significa appunto difesa, e quella propositiva, missionaria, di esporre i contenuti della fede in un linguaggio e con categorie di pensiero comprensibili ai contemporanei. Giustino era nato intorno all'anno 100, presso l'antica Sichem, in Samaria, in Terra Santa. Egli cercò a lungo la verità, pellegrinando nelle varie scuole della tradizione filosofica greca. Finalmente, come egli stesso racconta nei primi capitoli del suo Dialogo con Trifone, un misterioso personaggio, un vegliardo incontrato lungo la spiaggia del mare, lo mise dapprima in crisi, dimostrandogli l'incapacità dell'uomo a soddisfare con le sole sue forze l'aspirazione al divino. Poi gli indicò negli antichi profeti le persone a cui rivolgersi per trovare la strada di Dio e la vera filosofia. Nel congedarlo, l'anziano lo esortò alla preghiera perché gli venissero aperte le porte della luce. Il racconto adombra l'episodio cruciale della vita di Giustino. Al termine di un lungo itinerario filosofico di ricerca della verità, egli approdò alla fede cristiana. Fondò una scuola a Roma dove gratuitamente iniziava gli allievi alla nuova religione, considerata come la vera filosofia. In essa, infatti, aveva trovato la verità e quindi l'arte di vivere in modo retto. Fu denunciato per questo motivo e venne decapitato intorno al 165 sotto il regno di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo a cui Giustino stesso aveva indirizzato una sua apologia. Sono queste, le due apologie e il dialogo con Trifone, le sole opere che di lui ci rimangono. In esse Giustino intende illustrare anzitutto il progetto divino della creazione e della salvezza, che si compie in Gesù Cristo, il Logos, cioè il Verbo eterno, la ragione eterna, la ragione creatrice. Ogni uomo, in quanto creatura razionale, è partecipe del Logos, ne porta in sé un seme e può cogliere i barlumi della verità. Così lo stesso Logos, che si è rivelato come in figura profetica agli ebrei nella legge antica, si è manifestato parzialmente come in semi di verità anche nella filosofia greca. Ora, conclude Giustino, poiché il cristianesimo è la manifestazione storica e personale del Logos nella sua totalità, ne consegue che tutto ciò che di bello è stato espresso da chiunque appartiene a noi cristiani, seconda Apologia 13.4. In questo modo Giustino, pur contestando alla filosofia greca le sue contraddizioni, orienta decisamente al Logos qualunque verità filosofica, motivando dal punto di vista razionale la singolare pretesa di verità e di universalità della religione cristiana. Se l'Antico Testamento tende a Cristo come la figura orienta verso la realtà significata, la filosofia greca mira anch'essa a Cristo e al Vangelo, come la parte tende a unirsi a tutto. E dice che queste due realtà, l'Antico Testamento e la filosofia greca, sono come le due strade che guidano a Cristo, al Logos. Ecco perché la filosofia greca non può opporsi alla verità evangelica e i cristiani possono attingervi con fiducia come a un bene proprio. Perciò il mio venerato predecessore, Papa Giovanni Paolo II, definì Giustino pioniere di un incontro positivo col pensiero filosofico, anche se nel segno di un cauto discernimento. Perché Giustino, pur conservando anche dopo la conversione grande stima per la filosofia greca, asseriva con forza e chiarezza di aver trovato nel cristianesimo l'unica sicura e proficua filosofia. Dialogo 8.1, Fides et Ratio 38. Nel complesso, la figura e l'opera di Giustino segnano la decisa opzione della Chiesa antica per la filosofia, per la ragione, piuttosto che per la religione dei pagani. Con la religione pagana, infatti, i primi cristiani rifiutarono strenuamente ogni compromesso. La ritenevano idolatria, a costo di essere tacciati per questo di impietà e di ateismo. In particolare Giustino, specialmente nella sua prima apologia, condusse una critica implacabile nei confronti della religione pagana e dei suoi miti, considerati da lui come diabolici depistaggi nel cammino della verità. La filosofia rappresentò invece l'area privilegiata dell'incontro tra paganesimo, giudaismo e cristianesimo, proprio sul piano della critica alla religione pagana e ai suoi falsi miti. La nostra filosofia, così, nel modo più esplicito, giunse a definire la nuova religione un altro apologista contemporaneo di Giustino, il vescovo Melitone di Sardi, citato in Eusebio, Storia Ecclesiastica 4:26-7. Di fatto, la religione pagana non batteva le vie del Logos, ma si ostinava su quelle del mito, anche se questo era riconosciuto dalla filosofia greca come privo di consistenza nella verità. Perciò il tramonto della religione pagana era inevitabile. Esso fluiva come logica conseguenza del distacco della religione, ridotta a un artificioso insieme di cerimonie, convenzioni e consuetudini, dalla verità dell'essere. Giustino e con lui gli altri apologisti siglarono la presa di posizione netta della fede cristiana per il Dio dei filosofi contro i falsi dei della religione pagana. Era la scelta per la verità dell'essere contro il mito della consuetudine. Qualche decennio dopo Giustino, Tertulliano definì la medesima opzione dei cristiani con una sentenza lapidaria e sempre valida. Dominus noster Christus, veritatem se non consuetudinem cognominavit. Cristo ha affermato di essere la verità, non la consuetudine. La Velazione delle Vergini 1:1. Si noti in proposito che il termine consuetudo, qui impiegato da Tertulliano in riferimento alla religione pagana, può essere tradotto nelle lingue moderne con le espressioni moda culturale, moda del tempo. In un'età come la nostra, segnata dal relativismo nel dibattito sui valori e sulla religione, come pure nel dialogo interreligioso, è questa una lezione da non dimenticare. A tale scopo vi ripropongo, e così concludo, le ultime parole del misterioso vegliardo incontrato dal filosofo Giustino sulla riva del mare. Tu prega anzitutto che le porte della luce ti siano aperte, perché nessuno può vedere e comprendere se Dio e il suo Cristo non gli concedono di capire. Dialogo 7:3.